eccetera, i circoli non ci danno niente, non incassiamo niente, chiusi, invece i bar pagano le tasse, e quindi è chiaro che gli hanno dato diritto di poter lavorare, no? Ho capito, ma secondo me l'hanno peggiorata la situazione, perché comunque sia, vabbè, il circolo non paga quello, non paga l'altro, e lo stipendio all'esercente che ha quello d'Asi però a fine mesi, non è che non paga le tasse, ma di riburro, magnaghito. Ma hanno peggiorato le cose perché solo stanno facendo più assembramento, certo tu mi dici ragazzi è meglio così perché così lavorano molto di più, ma però sono tutti ammassati, perché la gente non ne frega niente se tu li chiudi quell'attività, quello lì se ne frega un'altra attività, anche se è piena, mica va a pensare tanto qua ci può subire il contagio, viene a futtare assai alla gente, no viene a futtare nulla alla gente, disammassano i buchi. Sì, sono d'accordo con te, ma infatti c'ho le restrizioni nel bar, perlomeno, la mia figlia è così, non si può entrare più di tante persone dentro il bar, capito? E fuori devono stare nei tavolini seduti, massimo due o tre persone, infatti la mia figlia hanno fatto togliere le sedie da quattro, li hanno fatti fare a due, capito? Quindi lì c'è il gestore e dire no, un attimino, qua dentro siete in troppi, io sono andato al CAF da poco a ritirare la documentazione del 730, la dichiarazione dei redditi, io mi sono Iana, minimo dentro prendete il bastone, c'era la mascherina, dentro tutti con la mascherina, non se n'era accorto il signor Fiori, io lo chiamo signor Fiori, che ha deciso, come fate tutti qua dentro? Tutti fuori, aspettate fuori, chiamiamo noi, tutti fuori, arrivano tre persone, massimo tre persone voglio qua dentro, tutti fuori, e tra tutti, tutti fuori. Una gazzata, che è rimasto tutti uno vicino al naso, fuori tutti senza mascherina, con la scusa che sono fuori, che stanno fumando, che stanno bevendo, però sono sempre senza mascherina, ok, e ti mando una fotografia di roba che vengono qui sotto, ogni assembramento che vedi tu, è una cosa allucinante, hanno peggiorato così, non è meglio dividere queste cose, invece di ammassarle tutte in questi posti adesso, invece no, ne saranno due circoli e sono tutti rivali però, ed è peggio. Come sto dicendo, non lì dipende dal gestore, dal proprietario, non si può stare fuori dal bar senza mascherina, sigaretta in bocca, non si può stare, c'è l'ordinanza, non si può stare, hai capito? Di là andà, vai dinni, ti devi allontanare dalla porta del bar, non si può stare fuori a fumare senza mascherina, non si può stare lui, quindi è lui che le sta bene così, capito? Se avessi abitato io lì, avrei fatto una fotografia e l'avrei mandata al comando dei vigili urbani. C'è un sito, tu la mandi lì, in 5 minuti arriva la pattuglia, a vedere che li baciano macchini. Ma se l'altro giorno c'era la camionetta della polizia municipale, la camionetta c'era parcheggiata, siccome lì si conoscono, no? Ma tu dovevi vedere la gente che viene abusata fuori. Tutti i russini senza mascherina, fumendi, con la scusa che stanno bevendo, e beh, eppure lo vigile l'ha pigliato e poi se n'è andato, ha chiuso tutti, capito, e si conoscono amico col gestore. E allora è come prendere in culo, meglio per lui, si arrangiano, io già non entro in chi si va, assolutamente, io non vado da nessuna parte, io ti ripeto, mi vado qua alla piazzetta, la vex zia Maria, c'è il figlio, prendo le sigarette, a volte un caffè veloce e me ne vado, perché non sto neanche fuori a fumare, niente, me ne vado a casa, capito? O vado a Cesaraccio a prendere il pane o dal Giano, faccio le commissioni qua vicino a casa, non sto andando più neanche dello spinto, e poi me ne vado, perché è pericoloso, è molto pericoloso, sa se è pieno di asintomatici, tu non sai nulla, batte i tavisini, ti cubono le croppiade e tu sei a posto. Sì, è un casino, Il bar, anche mia cugina lavora in un bar, però io dico no, non va bene, se questa cosa è veramente così pericolosa iniziamo a chiudere le attività che non sono necessarie, come i bar non sono necessari, sì dispiace perché l'esercente non guadagna, il dipendente non guadagna, ma allora non è così, non non è così grave, è meglio che apri un bar e fai ammalare delle persone che lo tieni chiuso fino a che questa situazione non si non finisca, non è meglio, scusa, sarà un mese tutti quanti e vedere un po' come si comporta questo virus eccetera eccetera, detenere tutti a becchi e fare assembramento e fare più contagio. Sì, ma io sono d'accordo con te, perché non l'ha già chiuso, non l'ha già chiuso mia figlia, ce l'ha fatta i 40 lì a casa. È così. No, ma la stronzata maggiore secondo me è questo lockdown, capito? Perché se le attività chiudono alle 6 di sera, è inutile che lasci la gente in giro sino alle 10. Fai lockdown dalle 6 di sera sino alle 6 del mattino, capito? Allora potrebbe esserci una svolta, ma così in questo sistema, no, per me non serve a niente. Chiudere così non serve a niente, o fai chiudere fatte solo la mattina, intanto la mattina, bene o male, con le colazioni, queste robe qua, a pranzo, la gente va a prendersi il caffè, voi alle 2, fai chiudere, 2:30, allora ci può anche stare, ma intanto dalle 2 alle 6 da bui, non è che sono tutti dritti a arrivare, capito, sicché non... Vabbè, adesso perché c'è questa cosa qua, che i circoli sono chiusi, molti si andano tutti a rubare, però chiudendo alle 2 secondo me va benissimo. Perché lavori con le colazioni e l'aperitivo, no, la di mia figlia è a Roma, lavora anche la sera, poi lavora bene la mattina pure all'aperitivo, ma anche la sera, dalle 3 in poi, capito? Anche la sera, soprattutto il venerdì e sabato, e ieri era pieno, non so io, c'era ancora gente, erano tutti fuori, poi sono tutti alzati, c'era tutto un secchiere, sono alzati e il cagato le sedie a fare pulizia, poi siamo arrivati a casa che erano quasi le 7:30, adesso ancora non mi ha chiamato, figurati, sicuramente sta tardando per quello, perché lì se ne va a piedi, quello la prenderà io, capito, se no ogni volta che va c'ho 4 euro, 5 euro, 6 euro di parcheggio. È un casino. E poi perché magari danno da bere alle 6 meno 10, 6 meno 4 danno da bere, e tu come in Pulevira non è che sia dei bibi a imbuttuno, sicché anche quello è sbagliato, 5 e mezzo, 6 meno 20, boh, non dare più da bere a nessuno, perché poi appunto alle 6 deve essere chiuso il bar, passano alla polizia e ripassano per male a chi magari chiede ancora consumendo alle 6 e 5. Infatti, no, poi non puoi manco uscire fuori con la bottiglia, col bicchiere, niente. Devi consumare, uscire, infatti lì appena escono tutti, chiude la porta e rimane dentro, capito? È un casino, io spero che si torni alla normalità più fretta possibile, il problema è che siamo anche quasi sotto Natale, quindi sto arrivando fra un po' dicembre, quindi c'è il rischio che se gli aumenti ci sono si va in lockdown totale, e quindi è un casino. Infatti lo Stato vede tutte queste, giustamente la gente che si lamenta, no? Se chiudiamo qui, là, come si fa, bomba, e allo stesso punto lo Stato se ne va. Va bene, volete aprire tutti quanti, apriamo tutti quanti, poi inizieremo a contare i morti. Ecco cosa dice lo Stato, visto che la persona di per sé non ha quello spirito di dire oh qua, questa è una cosa seria, me ne sto a casa, non ce l'ha, preferisce deve dire no, io devo lavorare, io devo guadagnare, io devo qui, io devo là, senza pensare al rischio che si corre, che si sta correndo, no? Allora lo Stato dice, allora aprite tutti quanti, boh, e come va, va? Tanto bene, la gente è andato male, no, una futiluta di ricontagi, no, gliene frega niente. Infatti, hai visto cosa è successo per l'apertura di discoteche? Che c'è un'inchiesta in corso la Procura della Repubblica di Cagliari, eh? Hai visto? Per pandemia, non so cosa, capito? Perché chi ha firmato l'ordinanza non doveva firmarla. Anche le discoteche, se... Non sei uscito. Sì, me ne sono accorto. anche le discoteche, aveva detto aprite tutti, su, forza, se uno è intelligente se ne sta a casa, siccome se ne smattano, perché sembra che non ci credano, allora aprite tutti, fate tutti quanti come se non ci fosse niente in giro. Allora vedete che hanno cominciato nei rimucchi, davvero, forse l'intelligente se ne sta a casa. Sì, sì, però è anche un discorso sbagliato, perché metti il caso che, sai come stai dicendo tu, no? E mio figlio esce, va in discoteca, poi torna a casa, io invece che sono segregato, tutto quanto mi contagia e crepo io, giusto? Ma infatti, ma hai visto, se chiudono si lamentano, chiudono i circoli e fanno assembramento nei bar, no? Come abbiamo già visto e come succede tutti i giorni, no? E quello giusto è che chiudono i circoli e la gente si riempiono i bar e fuori, e con la scusa che fuori possono stare, devono fumare qui e là, e quello non è rischio di contagio lo stesso, facendo questi assembramenti. E certo che sì. Fate agito, le discoteche, se uno è intelligente non ci va, se veramente ha paura, e se veramente ha paura di essere contagiato e di contagiare, in discoteca non vanno, capito? Invece gli esseri sbattono, proprio non ci credono, non gli frega niente di essere né contagiati e a quanto pare né di contagiare, se no in discoteca, se sei intelligente, anche se il sindaco dice apriamo le discoteche, tu non vanni, se ci tieni alla tua vita, se ci tieni a quella degli altri, e che se vuoi che tutto quanto finisca più presto, capito? Io avevo detto aprite tutto, discoteche, ristoranti, aprite. Ma lui non è così semplice, no, da valutare, ci vuole un po' di intelligenza su queste cose qua, non è a poco, no? Cioè, è un'anguria, no? Però sì, se si lamentano gli esercenti, cosa ti lamenti? Cioè non si offendi, per cercare di finirla più presto ti lamenti perché hai chiuso il bar, perché la discoteca è chiusa, perché la palestra è chiusa e non ti puoi fare gli addominali, oh, ma ti rendi conto di quello che sta succedendo o non ti vuoi rendere conto? Ah, se non ti vuoi rendere conto che la stragrande maggioranza a quanto pare è così, perché sennò i bar non si sarebbero affollati, allora abbia detto, allora apriamo tutto, e come va? Chi è intelligente se ne sta a casa e evita il contagio. Guarda un attimo, dai, che mi era fatto un messaggio, stavo uscendo a prendere l'aria. Ci sentiamo dopo, Tino e Luca, dai, anche gli altri che sono in ascolto, riprenditi. Va bene, ciao, salutami. E così però, Lu, la gente che ci lavora, tu devi mettere anche in conto questo, perché hanno fatto una, come si suol dire, una protesta in piazza d'Italia. Vedi, secondo me è sbagliatissimo tenere i bar aperti, perché i bar non sono locali che danno da mangiare o che comunque, come le farmacie, gli ospedali, i negozi di alimentari e tante altre attività, non sono cose di stare aperti, così. Perché il bar è uno sfizio dove uno va, si prende il caffè, si beve la birra, passa 10 minuti o l'ora, ok? Ma non è una cosa essenziale che sia aperta. Ok, non sarà essenziale come dici tu, però è un lavoro come un altro per poter portare il pane a casa, no? Se io ho un bar, tu non mi puoi costringere a chiudere e a pagarti le tasse e a pagare tutto quello che devo pagare. Se tu mi costringi a chiudere, allora mi devi tutelare e dare la cosa, o bloccare tutto e non farmi pagare niente, perché se io non ho un'entrata non posso fare le uscite. Ma infatti cosa ha fatto lo Stato, cosa ha detto? Allora tenete aperti, come ti dico, come ti anda, bello quello, no? Cioè costringerli a stare aperti, perché da una parte li stai costringendo, loro guadagnano tanto di più perché giustamente i circoli sono chiusi e tutti vanno nei bar, no? Questo io sto facendo l'esempio dei bar, ma hanno chiuso le palestre e gli esercizi delle palestre, anche quelli non si devono lamentare, cos'è? Il bar rimane aperto, che non è una cosa essenziale, e io che ho una palestra, anche quella non è essenziale, e perché devo chiudere? come i circoli, anche l'esercente del circolo, giustamente anche lui deve vivere, deve mangiare a fine mese, no? E pagarsi le bollette, non solo le tasse che non paga, lasciamo stare, ma le bollette mi dà. E perché l'hai fatto chiudere a lui? Secondo me ci sono cose sbagliatissime, ma sbagliatissime, soprattutto tra bar e circoli. Sì, ma che incassino più del dovuto, questo è da vedere, credo proprio di no, perché non è detto che incassano perché ci sono i circoli chiusi, anzi, secondo me ha anche abbassato l'incasso del bar, nonostante tutto siano ancora aperti. E purtroppo però la gente deve andare avanti, Luca. Vabbè, è un tocco un po' delicato in queste cose qua. Io spero che per quanto riguarda me non mi blocchino, poi ognuno pensa alla sua cosa, no? Sì, quello è quello sì, però no, mascherine, le attività devono andare, sì, giustamente, no? Ma se questa roba peggiora, le attività principali che devono andare sono sempre gli ospedali, le farmacie, il pane, cioè queste cose qua, se proprio si va a peggiorare. Tu lo dici che quando hanno chiuso i circoli i bar non stanno andando. Cosa? E vieni qua sotto dalla mattina fino alle 6 a vedere cosa c'è, cosa che non si è mai vista a me, cosa che non si è mai vista. Tutti quelli dei circoli, siccome io li vedo, no? Chi frequenta il circolo di qua giù, chi frequenta la Cristia, gente che qua al bar, questo bar non c'è mai venuta perché sono sempre andati a quei circoli, è il circolo dei comunisti, sono tutti qui. Perché? Perché c'è solo questo bar aperto. Non so se il bar sarà riaperto perché era chiuso anche quello e sono tutti nuovi. Vabbè, c'è gente abituale che va e ne vanno qualcuno di lì, quindi non so, non hanno scelta. Se non sanno in Indiana, esci di Romanzano, a Risetti, sono già alla serranda dello circolo, no? E si trovano così adesso, piano piano dopo, sono venuti tutti qua, capito? Ci sto dicendo gente che non ci frequentava, piuttosto che dire no, io non vado, non mi piace, non mi è mai piaciuto e non vado, no, tutti no, di Zoava. Che vuoi che le dica? Se non mi piace andare in quel bar, non è perché chiude quello a fianco dove sono abituato ad andare, mi trasferisco lì, se non mi piace non mi piace, non va, sì, cosa me la fuggi, non muoio, sì, se non andare a rubare o al circo, sicuramente non muoio, lo so, però sai, c'è quelle persone che dicono che lavoro, l'unica città è quella, e vado lì, aspetta, con una persona non è che raccomandi tu, no? Quello no, cioè tu pensa che c'è quel ragazzo del circolo di là, già lo sai che sto dicendo, sta frequentando qui, io non ho mai visto il gestore di quel circolo là dietro, già lo sai che sto dicendo. Oh, allora frequentando di nuovo, che ti rendi conto? Bene, oh yeah. Che volevi dire, Luca? Oh. Sempre bene, Tornando, sì? Sì. Ello. Ma e poi l'hai messa... l'hai provata con l'antenna? L'ho fatta... non è attaccata, ma c'è il dipolo. No, l'ho fatta con l'analizzatore, come faccio sempre, e l'ho già piegata, pronta martedì. Dunque, oggi è il 20... il 22, ma il 22, il 17 passa il Corriere. Bene. Si chiama Antonio Tantaro Antonio, strada Maria dell'Arzilla 21, 61 222 Pesaro. Ma no, io ho visto, non so se era quella, forse sono passato vicino, c'era una nel palo di prova. Sì. Infatti. Pensa che anche a Chiaramonti ci sono 2.000 abitanti, mi pare, o 3.000. Vi sono 22 contagiati già. Figurati. Hanno fatto chiudere tutto, che chiudere tutto. Se puoi immaginare in quei posti lì, per dire, appunto nei paesi così, la gente che è solita a paesano, che va abituato ad andarsene al mare, stare lì fino all'ora di pranzo, come si trova? Ci può andare, ci fa una passeggiata, dove è quello del produttore, sono una famiglia denunciata, tutti quanti positivi erano. Perché farsi pagare i tamponi, è una cosa incredibile, e dovrebbe essere gratuito il tampone per tutti, e invece di farsi pagare a Buruguisso. Vabbè, guarda, io stai chiamando una persona sbagliata, perché io sono contrario, per me, poi per gli altri che lo facciano pure. Conviene farlo, comunque. Perché tu non lo vuoi fare, non capito? Io sono contrario, per me, poi per gli altri facciano pure, detto. Perché non ho scudo per sapere cosa ho io. In che senso? Le nasce americane, basta dalla saliva, ti dicono vita, morte e miracolo, e tu cazzo mi c'è di entrare questo stecchetto nel naso, nella gola, per fare cosa? Nel naso, già conviene farlo, già conviene secondo me, perché stare nel dubbio non è bello, perché poi metti a rischio anche la tua di famiglia, capito? Sì, ma che te l'ho detto, tu sei la tua idea, io sono la mia. Ho capito, ma scusa, perché devi essere così? Nel senso, se ti dicono di farlo, tu non lo fai, ma così metti a rischio gli altri, quello ti voglio dire. Tu hai altre persone vicino. Certo, però siccome mi sento bene, grazie a Dio, non ne faccio. Cosa ti? Ho detto, certo, grazie a Dio mi sento bene, non ne faccio. Se poi mi sento delle patologie e sono costretto a farlo, però anche io. Sei asintomatico, è un casino, Ecco perché consigliano di farlo. Questo bisogna vedere se sono asintomatico o meno. Ma adesso che cosa stai facendo? A me, grazie a Dio, me l'hanno fatto e sono tranquillo, capito? E tu l'hai fatto perché sei stato costretto a farlo? Beh, io mi devo allontanare, sentiamo dopo se coincide, dai. Ehi, a dopo ti, ok? Ciao. Ha già sarrato, lui già si sta bene qua. la verità. Sottotetto ci sta, una meraviglia. Beh, anch'io in un certo senso sono sottotetto, perché sono, diciamo, su un piano che soffraccia il tetto, e quindi è un sottotetto. Peccato, no, io c'ho, praticamente c'ho lucernaio, capito? Qua. Come si dice? Cioè, nella stazione ce l'ho proprio, infatti ce l'ho 5 metri di capo, cioè, non è che è nata chissà canto. Infatti, una domanda, ma tu c'hai anche il canale basso per caso? Qua no. Ah, ok. Era per una curiosità mia. Ok, non si è sentito neanche Marco, sta ancora mangiando, vero Marco? Sta davvero mangiando? Sì, sicuramente, ma niente. Infatti, scusa un attimo che mi chiama. Sì, ok. Sì, dicevo, cosa dicevo, boh? Non me la metto più, la vecchiaia carogna. Vabbè, cosa si può fare? Ah, da quando ho modificato l'antenna non mi fate più rientro di chissà alternata. Vuol dire che c'avevi molte onde stazionarie e quindi rientravano indietro. Con questo alimentatore non lo faceva, adesso non lo fa più. Perché stanno uscendo fuori tanti di questi PPL soprattutto, che non valgono un tubo. Ogni tanto mi tocca cambiarne uno perché si diventa fradicio, proprio non serve a niente. Poi fradicio? Si corrodono, si rompono. Qua è una cosa allucinante. A me non se ne mai facendo uno. Lo so, ma io sono in campagna. Qua sono provocato, sono... La roba deve essere buona, capito? Si vede subito se le cose vanno male. Io sto usando quei PL per le R1058, quelli senza l'adattatore, quelli che proprio si avvitano, vai. Sì, mi conosco bene perché io penso qua davanti, tutti collegati, ce ne sono... Guarda, sono collegati, qua ce n'è a parete solo una ventina. No, Ramona, cosa vuoi tutto mai? Tanta roba. Pensa che come antenne, 1, 2, 3, 4, 5, ci avrò credo 11 antenne. Dovrebbe essere 11 antenne. Ramona. Se vuoi fare certe cose... bisogna essere attrezzati, se no non si possono fare, capito? Lo so, radio a volontà, così è. Radio sono tutte, sono nuove, perché ho cambiato da poco la stazione, sono tutte radio con controllo, ognuna controlla un determinato spazio di banda, mentre tu parli, ad esempio, io vedo chi c'è sul 20, sul 23, sul 40, anche su altre frequenze, con lo stesso apparecchio. E di queste ne ho due, poi ne ho altre due, sempre altre apparecchiature, c'ho una decina di portatili, ed è tutta roba particolare, però non la confondere con apparati giocato. Ho capito. Ti stavo dicendo, è per la 27 che antennai, c'è Mantova o qualche altra cosa? La Mantova ce l'avevo, ma siccome c'era una certa età, si è proprio... si è corrosa, capito? Si è corrosa a un punto tale che non si potrà neanche più smontare per fare l'alimentazione, per fare la manutenzione. Quindi l'ho dovuta sostituire, anche perché era troppo pesante, veramente pesante, a portarla su un tubo di quelli d'almine doppio da 12 metri, ci voleva larga, no? quindi ho detto, tra tubi, antenna, sta nascendo la mappa ogni volta, perché io faccio tutto da solo. Quindi ho sostituito la Mantova con la Game Master che è in fibra di vetro, riceve benissimo le prestazioni, devo dire che sono eccellenti. Ero molto scettico, ma diciamo che va molto bene. Sì, cappa, no, è buona già, è leggera poi, no. La Mantova, sì, una buonissima antenna, dura anche una vita, però molto pesante come antenna. Sì, molto pesante, poi quando... poi erano a piglio per le cornacchie, capito? Sono una cosa che veramente non... sta diventando... ce ne sono troppe. Si mettevano sui radiali lì, siccome sono anche grosse queste bestie, pesano perché arrivano al volo, si attaccano, boom! Tu fidati che ieri ne ho trovato una, non ho capito neanche come facciano, che era attaccata a uno stilo verticale in vetroresina, cioè a un'antenna verticale alta 5 metri in vetroresina. L'antenna piegata, ho guardato bene, c'era la cornacchia attaccata, e poi ne stava arrivando anche un'altra per attaccarsi. No, guarda, degli animali, cioè hanno un casino di spazio e vanno sulle antenne. E ci mettono anche in orizzontale come posizione, pur di attaccarsi allo stilo. Dopo ti fate danno la borraccia, il micidiale, un animale così stupido, per carità. A molti mi hanno detto che a molti bucano i tubi dell'acqua, no? Quelli che si mettono in campagna normalmente, ce li anch'io, però sono molto grossi per distribuire l'acqua in tutto il terreno. Molti li hanno trovati bucati, sul battoio vuoto. Andate a guardare, erano tutti bucarellati dal becco e cornacchie. Cioè, con una fusilata. Lo so, però non puoi sparare una cornacchia su un'antenna, perché ti fai fuori anche l'antenna, capito? Se non spara a pallini fai un danno micidiale a me. Ui, dannare dove vai. E quindi l'unica è battere le mani e farla scappare. Tutto lì, nel fatto è che ce ne sono troppe. Lo so, uno di campagna. Io mi ricordo che prima la Feroce, quando era la Feroce mi ricordo che c'era la Mantova su, che tu c'era un'altra antenna. Dove ero io, dici, perché anch'io ero in quel quartiere. E dove eri tu? Eri lì in via Corso. Dopo la pasticceria di Masia, insomma, in quel palazzo alto. Sì. Lì c'era proprio la Mantova 1, poi c'era una fibra di vetro per HF, e poi ce n'erano altre due che erano di banda VHF e VHF. Poi sul terrazzino c'era quella satellitare. Io me lo ricordo. Se non avessi sicuramente, se non avessi smontata la Mantova, sarebbe funzionata ancora. Infatti è quella che avevo, capito? Quella che era lì, poi l'ho portata qua, ma qua adesso a quest'ora, se tu esci fuori ti cancareggi, perché scende l'acqua, scende un umido, in campagna è terribile, capito? Quindi va messo tutto in maniera particolare, ci vogliono cavi buoni, perché sennò non dura niente la roba. Già lo so già. Tu mi hai detto invece che sei adesso non mi viene. Comunque zona stazione, tra la stazione e porca la miseria, dove c'è la chiesa del Carmelo? Lì è stato Pulinare, dai. Non ti copre forati della zona esatta, abito lì vicino io. Stata storica, dai. Sì. Oh, già, la verità. Quando sono venuto qua, finalmente me la metto sul tetto. Quando era latte dolce, c'era che c'era un condominio, rompimento di balle, tutte cose. Io l'avrei messa lo stesso, l'antenna, la verità. Tu in che zona eri di latte dolce? Lì in Piazza Botte che abitavo. Ah, ho capito. Di fronte alla chiesa della Bertella. No, dove c'è il certo abitavo io. Ah, ho capito, quindi praticamente vicinissimo a Gio Maria e in quella zona, dai. E lì esci a Gurcio di Coburu, sì, poi anni fa c'era qualche boomerang pure. Io uscivo qualcosa, tornando indietro mi avrei messo la boomerang grande, che è la migliore che c'è. Come antenna piccola secondo me è la migliore che c'è, perché le ho provate tutte. Sì. Ma poi c'erano anche molti rompipalle, gente che si lamentava per le antenne, eccetera. Con me non hanno potuto fare niente perché ero proprietario, dovevano chiedere il permesso a me per mettere qualcosa. Quindi al dunque diciamo, ma guardate, le antenne sono di mia proprietà, così come di mia proprietà anche il terrazzo e tutto quanto dove sono installate. E sono autorizzate, nessuno può dire niente, perché c'è anche scritto sull'atto notarile, l'avevo fatto mettere, che praticamente la zona era mia e quindi potevo fare tutto quello che volevo, in quanto proprietario. E capa, non so così se li convenia. Ragazzi, ti chiamava tanto nel televisore, gliela facevi mettere. Non c'era problema, è importante che non rompi le cazzole. Sì, infatti mi hanno chiesto il permesso di mettere un'antenna sul tetto satellitare. Ho detto, per me non c'è problema. L'importante è che non dia fastidio, che sia messa a regola d'arte. Infatti hanno chiamato i tecnici, l'hanno dovuta piazzare proprio in maniera che non disturbasse neanche col vento. Che facciamo la modulando, avanti, c'era qualcuno che voleva entrare. Avanti, che se qualcuno vuole entrare. Manda laterale era. Ma com'era? Forte? Abbastanza. Ma non, a te non ti copriva però, Non ti copriva. È strano perché sto andando proprio ai minimi termini, giusto il 2 watt, anzi neanche un watt e mezzo, perché non uso potenza, perché ho anche dagli altri apparati accesi e non li voglio disturbare, ecco. Sì, capo, io ho un cliente che anche tu non li capi tu. Ma non ti fa niente a te, non penso neanche a me. Ma figurati che io neanche sentito, tu sei 9:20 esattamente. Vai tu, ma di oggi non va di nulla. Là me ne facevano uscire gli occhi quando l'ho giurato dolce, a chi veniva burbortantizza, e non che poca vita, ma perché se mi rompo le scatole, poi cosa faccio? Scendo da un amico, prendo quello a 300, poi voglio vedere cosa dove giochi. Non è necessario, tanto guarda, a parte che adesso sono molto pochi, poi basta lasciarli perdere se stancano, capito? Ce n'era anche uno ieri, ma stava disturbando lì l'altro, c'era quel CD di uso, adesso non mi viene il nome, ma non lo passavano di poco, però riuscivo a capire quello che diceva, ed era usido, figurati. Senza, ma la giusti, per carità. Però l'ho promesso, il giorno che mi rompo di scatole, so già dove andare. io attacco chi sa fare, e a voi sono durare. Sì, ma poi devi stare attento perché in quella zona hanno tutti gli impianti d'antenna vecchi che il cucco, e quindi ti capitano come è capitato a Natalino, che per colpa di quelli lì poi ha passato un guaio, capito? Qua l'ho provato a massima potenza, non ci sono problemi, niente, per fortuna sono salvo. Sì, perché ci vedono certi impianti di antenna che fanno proprio, così ce l'accamo, antenne storte, corrotte, spazzate delle capovolte dal vento, e la gente si lamenta. Se ne vedono, se ne sentono di tutti i colori. E a chi rimane a fare degli impianti di... non servono a niente, fanno. L'impianto vuole fatto bene, vuole buono, vuole. Quello sì, soprattutto vuole sapere fare la regola d'arte. Ma certa gente proprio, finché non rimane col solo cavo e senza più antenna non è contenta. Poi se li apri quei cavi sono tutti, c'è pochissima calza, insomma, come anche l'RG58 ad esempio, molti modelli, se tu li apri, proprio sono fatti al massimo dell'economia. Già lo so. Io infatti se posso non lo uso mai, non c'è quasi niente, anzi non c'è niente. Anche molti strumenti sono collegati col coso, con l'H155 che lo uso per fare le bretelline, no? Di collegamento. Ma quale? Quello fine H155 dici? Sì, quello originale della Belle. Stavo cercandolo, stavo. Io ne avevo preso un pochino da coso lì, da Fusaro, perché giusto quello per fare le bretelle va bene, per tutto l'altro invece bisogna usare roba molto molto più robusta. Lo so, sto cercando un cavo fine che almeno sia un po' migliore. Vabbè, c'è l'RG58, cosa devo fare? Per adesso ci lascio questo e poi vediamo. Ma non sono molti metri, no? Altri metri di bravo, so. No, allora va bene, dai, non vale la pena cambiarlo, anche perché costa discretamente caro quello buono. Se va bene, anche dal segnale vedo che sia abbastanza forte, quindi consiglio di lasciare quello, non vale la pena spendere soldi così per una distanza del genere. 5 metri, tu figurati che la mia, che in cavo per andare il segnale alla stazione radio, alla Game Master, sono esattamente 50 metri. I foramari, cavolo, un bel distante gli emesse. Perché ci sono i tralicci, capito? Ci sono i tralicci con tutte le altre antenne, quella c'è un traliccio a sé, un po' più basso. Tralicetto di, credo che sia 6 metri più altri 6 di tubo, tanto l'antenna leggera, per quello è un grosso vantaggio. E c'è il cavo che parte lì, poi va sottoterra e arriva alla casa. Però per fare quel lavoro c'è un cavo d'altissima qualità, messi paloni praticamente, credo che ci sia 300 euro di cavo, perché me l'avevo fatto arrivare da fuori, che era un'offerta, quello subacqueo, se tu lo apri dentro c'ha tipo la calza e poi c'è una specie di coibentato contro l'acqua. Proprio roba buona, proprio roba buona. Quella ci vuole, per quelle distanze, se no non fa niente. se poi c'è le antenne UHF, guai, di lì ho dovuto mettere cavo quanto tre dita, un tubo d'acqua praticamente, c'è sotto terra, tutto in rame, non ti dico il prezzo perché è osceno, perché è una cosa lunghissima. Lì ci sono, credo, 35-40 metri di cavo speciale, sono gli stessi che utilizzano per la telefonia mobile, noi, i ponti radio. E poi c'è anche lì una discesa per arrivare all'antenna, come messi i palloni, sempre professionale. È roba buona, roba molto buona. Infatti, con poche vacche si guasse. È difficile, sono cavi indubbiamente eccellenti, molto buoni, però guarda, quando il Corriere l'ha portato eravamo in due a scendere, no? Il cavo, perché è pesantissimo, si piega a malapena, quindi non è cavo da mettere in abitazione o quelle cose lì, perché dentro l'anima è rigida, capito? Il cavo è rigido perché è anche corazzato, quindi è una cosa molto molto faticosa. Faldo. E quello ti dura 20 anni, ti dura almeno. Speriamo, perché insomma costa parecchio e sta sempre aumentando, perché il rame man mano che stiamo andando iniziamo a scarseggiare, capito? Lo so, è troppo così. Oia, beh, io mi sa che ti devo lasciare. Cavolo, già fatto, devo lasciare, mi sa. Fai pure, non c'è problema. Fai pure, tanto io mentre parlo faccio tante altre cose, non è che sono solo alla radio, c'è anche il PC acceso, c'è un altro paio di apparati di monitoraggio, quindi ce n'è di roba. Quindi tu mi stai anche prendendo il sonno, tio. Vai pure, Antonio, buona serata, buona cena soprattutto, e buona domenica, perché domani è anche domenica, me l'ho anche scordato. Sì, capo, buona domenica a te, vai. Io adesso mi addormento un po', sono un pochettino stanco anche. Buonanotte. Anche a te, buonanotte, a domani. Ciao, ciao. Ah, ciao Gianfranco, ciao, ciao. Andiamo, questa. Davvero? Attento, Tino! La metti? Ciao Luca. Com'è? Com'è? Stavo scorrollando un po' qua nel PC per cercare qualcosa per i bimbi a Natale, ma... Senti, non puoi essere già a Natale, fallo arrivare, cazzo. Comunque io sto sistemando il Huawei P8 Lite. E diventa nuovo, ho preso già il display. Che copri batteria, là, che il resto è tutto rotto, ho preso tutto nuovo, adesso vediamo, poi io lo tengo come secondo telefono, adesso vediamo, là. Fammi sapere. Eia, poi c'ho anche caricabatterie Huawei, lo stesso, ci ho preso il cavo, basta, vabbè, il cavo costa 2 euro del CDC. Non ho capito, vabbè, poi non fa vedere, non so adesso cosa... non so neanche le idee chiare. Beh, quando è finito ci vediamo e ne parliamo. Guardi, sì, ti assicuro che diventano c'è nuovo, ma nuovo, perché sto mettendo tutto nuovo. Ho capito, va bene. Positivo Gavarogge, dai, non ci sono problemi, Gaba. È un 16 giga. Se non si fa, insomma, se non si riempie di cavolate, il telefono va, Oh, ma non che gli aggiungi un 8 giga di memoria, allora inizia, o un 16, diventa un 32 e allora inizia a essere un po', insomma, una cosa più seria, là. Sì, che lo so qua. Sì, ne parliamo. Aspetta, ascolto un audio di mio cognato. E a fare fatto, ho trovato il giornale al cane per fare la pipì.